Certamente la crisi è stato un acceleratore di tendenze che in realtà io penso ci fossero già in giro per il mondo. Per questo io dico, è evidente che quello che oggi sta facendo la Fiat è ingombrante, insomma, il fatto che lo dica la Fiat è di per sé roboante come messaggio, ma di fatto era una situazione che molte anche medie imprese italiane, non solo le grandi, le medie, le piccole, stavano già vivendo da tempo perché appunto erano in giro per il mondo e vedevano quello che stava succedendo. Il mondo è cambiato, io non so se sia possibile dare un giudizio di merito, non lo voglio nemmeno dare, non voglio dire che sia giusto o sbagliato, semplicemente un dato di fatto. Il mondo è cambiato, non viviamo più con lo stesso, diciamo, schema, di 2 o 3 anni fa e quindi ci servono regole nuove. Noi viviamo oggi con degli schemi contrattuali che risalgono al 1970 e quindi, insomma, noi stiamo parlando di cose che sono cambiate nell'arco di 2 anni, è evidente che strumenti che sono hanno ormai più di 30 anni, almeno il dubbio che siano datati può venire, ecco. Il timore però dei sindacati, diciamo, al di là delle varie posizioni che abbiamo molto raccontato anche in questo programma, è che la flessibilità sia una flessibilità sempre, diciamo, a ribasso. O meglio, se si citano modelli anche stranieri, si fa notare però che i salari sono più alti. Allora è impensabile in questo momento, con una produttività già bassa come abbiamo, aumentare, diciamo, in media tutto il monte salari, ma lei ritiene che si riesca anche a coniugare flessibilità, quindi orari, disponibilità più ritagliate sulla base delle esigenze dell'impresa, anche a livello stagionale? Sappiamo che non tutte le imprese hanno lo stesso tipo di produzione su base annua, ma accompagnandoli anche degli incentivi salariali? Io credo che si debba e quello che noi diremo oggi è che appunto da quando noi ci siamo insediati in questa presidenza e parlammo, come lei ricordava, del contratto ad persona, che naturalmente era una provocazione, ma insomma era una provocazione visionaria. Ecco, in 2 anni oggi fortunatamente la contrattazione di secondo livello, quindi la contrattazione aziendale, è un dato di fatto, e iniziamo a parlare di una possibilità di modifiche, di deroghe ai contratti nazionali, e questo entra nella piattaforma di almeno due sindacati di quelli che, insomma, dei tre che abbiamo e ci auguriamo naturalmente che con un po' di discussione, con un po' di dialettica, come è giusto che sia, insomma, quasi tutta o tutta, ecco, la parte sindacale poi converga. È evidente, bisogna creare ricchezza e bisogna in qualche modo poi dividere questa ricchezza. Nessuno pensa oggi in Italia di abbassare i salari. Il problema è creare le condizioni perché la torta si allarghi e questa torta poi venga ridivisa. È evidente che non si può distribuire nulla di più se prima non c'è il prerequisito della creazione di maggiore ricchezza.